Cos'è quel che resta tra noi? Cos'è? Perché ora tu non ci sei con me? Sono da solo in questo momento e ti ripeto per un istante, sopra quel verde prato torna il mio passato qui. Le ultime tue parole, pietà. Ti portava via, stringevo forte intorno al tuo collo e la tua vita volava via presto sopra quel verde prato.